dove sei finita, figurati se la vita ti ha cambiata, qualcuno ti avrà magari trattenuta, so che non si sa mai. Parliamo di te, che ridi quando vieni o ridi di me, o stai davvero bene, chissà chi sarai, di sotto le tue creme, forse adesso lo sai. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Parliamo di te, che mi tenevi in tasca scegliendola tu, la dose d'aria fresca tenendomi lì, scordandotene presto, tanto dai prima o poi. Parliamo di te, che ti aspettavi troppo, in cambio però ci hai messo sempre tutto, adesso lo sai, che cosa non ti ho detto e forse mi scuserai. Forse i ricordi non sono bugiardi, non più di tanto almeno. Forse ricordi, magari ti ricordi un po' come ti viene. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Certe donne brillano, certe donne restano, certe donne dicono presente, sono andate via da un po'. Forse ricordi non sono balordi o non come si crede. Forse ricordi, ma sì che ti ricordi davvero come viene. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Certe donne brillano, certe donne restano.